Elba, 25 luglio 1967. Caro Eleuterio, sono qui con il mare davanti e la spiaggia sotto l'asciugamani, che poi è una specie di accappatoio. E io penso che l'asciugamani da bagno in fondo è un grande fazzoletto per lacrime di mare. Penso anche che sei un cretino, perché non si fa di un albergo un campo di battaglia solo perché una moglie che sono io si dedica allo sci acquatico. E sabato, quando verrai, ne parleremo a lungo. Sempre tua. Roma, 26 luglio 1967. Incontenibile sempre mia. Il fatto che tu abbia la spiaggia sotto l'asciugamani mi fa rabbia. Eh sì, perché la sabbia non si incendia e non esplode, quindi è perfettamente inutile pensare alle micce. Hai ragione, non si fa di un albergo un campo di battaglia solo perché fai dello sci acquatico, anche se per lo sci di qui sopra hai ingaggiato un maestro di rapallo e un pilota per motoscafi di Genova. Non si fa un campo di battaglia, si fa un obitorio. Che il pilota e il maestro siano nativi di Genova e di rapallo non mi disturba, è la loro trasferta all'Elba che mi fa agitare. Eleuterio. Elba, 27 luglio 1967. Caro Eleuterio, gattacchio. Forse non si dice, ma rende l'idea dell'incrocio tra il gatto e l'abbacchio. Per te è perfetto. Sono qui con il cielo di sopra e il mare di sotto, che prendo il sole sul materassino di gomma. E io penso che il materassino di gomma non è che una bolla di sapone quadrata che ha sbagliato cielo. Fai tante storie per un pilota e un insegnante di sci, roba da matti, e la gente di qui, quando ripensa l'altra sera, ti indirizza pensieri di disprezzo, forse di odio. Non mangiare cose difficili a digerire. Sempre tua. Roma, 28 luglio 1967. Inevitabile sempre mia. Se i pensieri di odio arrivassero tangibilmente a destinazione, lì dalle tue parti ci sarebbe solo un ammasso fumante di ruderi e nello sguardo dei superstiti uno stupito dolore. E se pensi di considerarmi fra quei superstiti, io sarei l'unico a non essere addolorato e tantomeno stupito. Minimizzi, sul pilota e sul maestro di sci, evitando come al solito i particolari. Che cos'è? Li hai forse dimenticati o no? E sabato, quando arriverò, riparleremo fermamente di tutta la faccenda. Ciao, Eleuterio. Ho scritto: non mangerò cose difficili a digerire. Stai tranquilla per tua madre. Elba, 29 luglio 1967. Caro Eleuterio, micione! La spiaggia è semideserta. Una ragazza è sotto la doccia all'aperto. Io penso che la doccia, dopo tutto, è solo uno zampillo al contrario. I particolari? Ma certo, è Eleuterio che li ricordo. Stavamo aspettando l'ora di cena quando improvvisamente, per la faccenda dello sci acquatico, hai fatto una specie di carnevale. E oltre la vetrata, il mare dondolava le barche nel porticciolo. E Eleuterio, senti com'è dolce il rumore del silenzio. Lo sapevo. Hai mangiato di nuovo i frutti di mare e non li hai digeriti. Ma che dici, Eleuterio? Eh sì, se non avessi difficoltà di digestione, come faresti certi discorsi? Scusa, il rumore del silenzio sarebbe come dire la lentezza della velocità. Non capisci quasi niente, Eleuterio. E se ci metto un quasi è per non rimanere completamente delusa io. Certo che il silenzio ha un suo rumore particolare. Se improvvisamente un rumore cessa, tu che cosa senti? Niente. Niente è silenzio. Quindi se lo senti è un rumore anche lui. È incredibile. E nonostante tutto riesce anche a sembrare normale alla gente di passaggio. Io adopero il rumore del silenzio solo quando è provocato da te. Stai zitta! Proprio vuoi parlare di Dì al cameriere che ho fame. Sì, ma prima devi parlare con Giovannino. Giovannino? E chi è Giovannino? È il titolare della ditta Tuttomare. Quello degli sci. Di sci? Sì. Quali sci? Non è tempo di sci, è tempo di mare, di spiaggia, di barche. Appunto, Giovannino è quello degli sci acquatici e della barca. Oddio, barca. Motoscafo, più che altro. E allora? Allora, Eleuterio, quando qualcuno, che sono io, compra qualche cosa, qualcuno, che sei tu, deve pagare. E che cosa ci sarebbe da pagare? E sci acquatici, motoscafo, più lezioni da maestro di sci e paga pilota motoscafo. E perché ci sono da pagare tutte queste cose? Ma perché avevo voglia di fare lo sci acquatico. E non lo si può fare senza sci, senza motoscafo, senza uno che guida e uno che insegna. Ma adesso ho imparato. Che bravo! Quindi adesso sai fare lo sci acquatico? Sì, sì, sì. E trainata da qualunque mezzo io... Ecco, vado. Questa è una soddisfazione, perché domani affitterò un sottomarino, uno di quelli che abbiano almeno 40 giorni di autonomia in immersione, e ti farò trainare. Assassino! Ecco, ad ogni modo, questo è il conto. Il maestro di sci e il pilota sono da pagare a parte, più la trasferta. Eleuterio, scendi dalla cristalliera. Portiere! Eleuterio, non saltare! No, no, no, no, su quel tavolo! Il piano di cristallo, Eleuterio! E invece salterò Eleuterio. E farò in modo che tu no, possa sentire per no, una volta no, il peso della tua famiglia no, sulle tue spalle! Eleuterio. Io sono la tua famiglia! La tua famiglia! Oltre la vetrata, il mare dondolava le barche nel porticciolo. E tu sei saltato dalla cristalliera sul tavolo di cristallo e poi quasi su me. E adesso è quasi sabato e stai per tornare. Ma io che ti amo, farò finta di niente. Sorriderò al tuo ingresso, ti correrò incontro e... Ciao. Bentornato, Eleuterio. Abbiamo per una settimana ospiti il babbo e la mamma. Li ho fatti venire perché vedano come so fare lo sci acquatico.